Parte terza. 1. Non ti racconterò fatti dettagliati e precisi, disse Lelia. Tutto ciò che ha costituito la mia vita sarebbe lungo da raccontare quanto la mia vita stessa. Ma ti racconterò la storia di un cuore infelice, traviato da una vana ricchezza di facoltà, appassito prima di vivere, logorato dalla speranza e reso impotente da un potere forse eccessivo. Ed è questo che ti rende deplorevolmente volgare, Lelia, disse la spietata cortigiana nel suo buon carattere. È questo che ti rende simile a tutti i poeti che ho letto, perché io leggo i poeti. Li leggo per riconciliarmi con la vita che dipingono con colori così falsi e che ha il difetto di essere troppo bella per loro. Li leggo per sapere da quali idee pretenziose e scandalosamente errate bisogna guardarsi per essere saggi. Li leggo per prendere da essi ciò che è utile e respingere ciò che è cattivo, cioè per appropriarmi di quel lusso espressivo che è diventato il linguaggio abituale del secolo e per salvarmi dal rivestire con esso le sciocchezze che professano. Avresti dovuto fermarti lì, avresti dovuto usare la fecondità del tuo cervello per poetare le cose, per apprezzarle meglio. Mia Lelia, avresti dovuto applicare la tua superiorità mentale per godere e non per negare. Perché allora a cosa ti serve la luce? E hai ragione, crudele, disse Lelia con amarezza. Non lo so. Ebbene, è mia la colpa. È mio il male, è mia la fatalità che tu additi e deridi quando vengo a lamentarmi con te. Io mi umilio e mi addoloro per essere un tipo così banale e comune della sofferenza di un'intera generazione malata e debole. Tu mi rispondi con disprezzo. È così che mi consoli? Oh, perdonami, poveretta, disse la spensierata Pulcherie sorridendo, e vai avanti. Lelia continuò. Se la divina natura mi abbia creata in un giorno di rabbia o di apatia, in un sentimento di indifferenza o di odio per le opere delle sue mani, non lo so. Ci sono momenti in cui mi odio abbastanza da immaginare di essere la combinazione più abile e terribile di una volontà infernale. Ci sono altri momenti in cui mi disprezzo al punto da considerarmi una produzione inerte, generata dal caso e dalla materia. Non so a chi posso imputare la colpa della mia miseria e nelle amare rivolte del mio spirito. La mia più grande sofferenza è sempre quella di temere l'assenza di un Dio che posso insultare. Così lo cerco in terra, in cielo e all'inferno, cioè nel mio cuore. Lo cerco perché vorrei spegnerlo, maledirlo e colpirlo. Ciò che mi indigna e mi fa arrabbiare contro di lui è che mi abbia dato tanta forza per combatterlo e che stia così lontano da me, che mi abbia dato il gigantesco potere di attaccarlo e che stia laggiù o lassù, non so dove, seduto nella sua gloria e nella sua sordità, al di sopra di tutti gli sforzi del mio pensiero. Sono nata tuttavia sotto felici auspici, la mia fronte era ben conformata. Il mio occhio si annunciava nero e impenetrabile, come deve essere l'occhio di ogni donna libera e orgogliosa. Il mio sangue circolava bene e nessuna disgrazia paralizzante mi colpiva con una maledizione ingiusta e stridente. La mia infanzia è ricca di ricordi e impressioni di inesprimibile poesia. Mi sembra che gli angeli mi abbiano cullata tra le loro braccia e che le apparizioni magiche mi abbiano rovinato la natura reale prima che il senso della vista si rivelasse ai miei occhi. E mentre la bellezza cresceva in me, tutto mi sorrideva, uomini e cose. Tutto intorno a me è diventato amore e poesia, e ogni giorno il potere di amare e ammirare è sbocciato nel mio petto. Questo potere era così grande, così prezioso e così buono. Lo sentivo emanare da me come un profumo così dolce e così inebriante che lo coltivavo con amore. Lungi dal diffidare e dal risparmiare la sua linfa per godere più a lungo dei suoi frutti, l'ho eccitata, sviluppata e fatta fluire con tutti i mezzi possibili, saggia e infelice com'ero. L'ho esalato da ogni poro, l'ho riversato come una fonte inesauribile questo potere di vita su tutte le cose. Il minimo oggetto di stima, il minimo soggetto di divertimento mi ispirava entusiasmo ed ebbrezza. Un poeta era un dio per me, la terra era mia madre e le stelle le mie sorelle. Benedirei il cielo in ginocchio per un fiore sbocciato alla finestra, per il canto di un uccello con cui mi sono svegliata. Le mie ammirazioni erano estasi, il mio benessere delirio. Ampliando così di giorno in giorno il mio potere, eccitando la mia sensibilità e diffondendola senza misura sopra e sotto di me, stavo per gettare tutto il mio pensiero, tutta la mia forza nel vuoto di questo universo inafferrabile che mi rimandava tutte le mie scialbe sensazioni, la facoltà di vedere abbagliata dal sole, quella di desiderare affaticata dall'aspetto del mare e dalla vaghezza degli orizzonti, e quella di credere scossa dall'algebra misteriosa delle stelle e dal mutismo di tutte quelle cose che la mia anima inseguiva. Cosicché arrivai nell'adolescenza a quella pienezza di facoltà che non può andare oltre senza rompere l'involucro mortale. Quando sono entrata nella vita lavorativa, avevo tutti i fatti da imparare, nessuna nuova emozione da provare. Questa è ancora la storia di un'intera generazione. Poi è arrivato un uomo e io l'ho amato. Lo amavo con lo stesso amore con cui avevo amato Dio, e i cieli, e il sole, e il mare. Solo che ho smesso di amare queste cose e ho trasferito su di lui l'entusiasmo che avevo avuto per le altre opere della divinità. Ahimè, quest'uomo non aveva vissuto con le stesse mie idee, conosceva altri piaceri, altre estasi, avrebbe voluto condividerle con me, ma io, nutrita da una manna celeste, io il cui corpo era assuefatto alle austere contemplazioni del misticismo, il cui sangue era zittito dall'immobilità dello studio, non sentivo il pungiglione della giovinezza affondare nella mia carne. Ho dimenticato di essere giovane e la natura ha dimenticato di risvegliarmi. I miei sogni erano stati troppo sublimi, non potevo più scendere agli appetiti grossolani della materia. Era avvenuto un divorzio completo, senza che me ne accorgessi, tra il corpo e lo spirito. Invece di iniziare con il piacere e finire con la riflessione, avevo aperto il libro della vita. Nel capitolo della scienza mi ero inebriata di meditazioni e spiritualità e avevo pronunciato l'anatema su tutto ciò che non avevo ancora sperimentato. E quando arrivò il momento di vivere, era troppo tardi, avevo già vissuto. Ma se la giovinezza dei sensi, se la vita del corpo non ha che un giorno che deve essere colto e che non ritorna più, la giovinezza dell'anima è lunga e la vita dello spirito è immortale. Il mio cuore ha superato i miei sensi e mi sono dedicata a me stessa, chiudendo gli occhi. Hai ragione a dire che la poesia ha perso lo spirito dell'uomo, ha desolato il mondo reale, così freddo, così povero, così deplorevole, al prezzo dei dolci sogni che fa nascere. Inebriata dalle sue folli promesse, cullata dalle sue dolci beffe, non sono mai riuscita a rassegnarmi alla vita positiva. La poesia aveva creato per me altre facoltà, immense, magnifiche, e che nulla sulla terra avrebbe potuto soddisfare. La realtà ha trovato la mia anima troppo vasta per essere contenuta per un momento. Ogni giorno doveva segnare la rovina del mio destino davanti al mio orgoglio, la rovina del mio desolato orgoglio davanti ai suoi stessi trionfi. Fu una grande lotta e una misera vittoria perché, a forza di disprezzare tutto ciò che è, concepii il disprezzo per me stessa, una creatura sciocca e vana che non sapeva godere di nulla a forza di voler godere di tutto splendidamente. Eh sì. È stata una lotta grande e dura perché inebriandoci la poesia non ci dice che ci inganna, diventa bella, semplice, austera come la verità. Assume mille volti diversi, diventa uomo, donna e angelo, diventa Dio e ci aggrappiamo a quest'ombra. La inseguiamo, la abbracciamo, ci prostriamo davanti a lei e crediamo di aver trovato il divino e di aver conquistato la terra promessa, ma ahimè. La sua effimera bellezza cade a pezzi sotto l'occhio dell'analisi e la miseria umana non ha più uno straccio con cui coprirsi. Oh, allora l'essere umano grida e bestemmia e insulta il cielo e chiede ragione delle sue disgrazie, si crede derubato, si sdraia e vuole morire. E perché Dio lo inganna così? Quale gloria può trovare il forte nell'ingannare il debole? Perché tutta la poesia emana dal cielo ed è solo il sentimento istintivo di una divinità presente nei nostri destini? Il materialismo distrugge la poesia, riduce tutto alle semplici proporzioni della realtà. Costruisce l'universo solo con combinazioni. La fede religiosa lo popola di fantasmi. La divinità, dietro i suoi veli impenetrabili, ride persino del nostro culto e delle creazioni angeliche di cui il nostro cervello malato la circonda. Ahimè, tutto questo è oscuro e scoraggiante. È che non dobbiamo né sognare né pregare, dice Pulcherie. Dobbiamo accontentarci di vivere e accettare ingenuamente la fede in un Dio buono. Questo basterebbe all'essere umano se avesse meno vanità, ma l'uomo vuole esaminare questo Dio e rivedere le sue opere, vuole conoscerlo, interrogarlo, renderlo favorevole ai suoi bisogni, responsabile delle sue sofferenze, vuole trattare con lui da pari a pari. È stato il tuo orgoglio a inventare la poesia e a mettere tanti sogni deludenti tra la terra e il cielo. Non c'entra niente, Dio, non è l'autore delle tue miserie. Orgoglio, sicurezza, disse Lelia. Sono due parole diverse per la stessa idea, sono due modi diversi di vedere lo stesso sentimento, in qualsiasi modo lo si chiami. È il complemento del nostro organismo e la chiave di volta della nostra architettura intellettuale. È il divino che ha coronato la sua opera con questo pensiero vago e doloroso, ma infinito e sublime. È la condizione di ansia e disagio che ci ha imposto elevandoci al di sopra delle altre creature animate. Supererete la forza del cammello, l'abilità del castoro, ci fu detto. Ma non sarete mai soddisfatte delle vostre opere e al di sopra del vostro Eden terreno cercherete sempre la promessa fluttuante di una dimora migliore. Andate, dividerete la terra, ma desidererete il cielo, sarete potenti, ma soffrirete. Ebbene, se è così, disse Pulcherie, soffri in silenzio, prega in ginocchio, aspetta il cielo, ma rassegnati ai mali della vita. Sentire la sofferenza imposta dalla natura creatrice non è l'intero compito dell'essere umano, è accettarla. Non si tratta di sopportare il giogo, ma di gridare e maledirlo. Sai che non basta trovare la coppa amara, bisogna berla fino alla feccia. Hai una sola possibilità di grandezza sulla terra e la disprezzi. È quella di sottometterti. E tu non ti sottometti mai. A forza di bussare imperiosamente alla dimora degli angeli, non temi di renderla inaccessibile a te? Hai ragione, sorella. Parli come Tranmor. Innamorata della vita, sei allo stesso punto di sottomissione di quest'uomo distaccato dalla vita. Sei calma nel disordine come lui nella virtù. Ma io, che non ho né virtù né vizi, non so come sopportare la noia dell'esistenza. Ahimè, è facile per te descrivere la pazienza. Se fossi come me, collocata tra coloro che sono ancora vivi e coloro che non lo sono più, saresti, come me, agitata da una rabbia oscura e tormentata da un desiderio insaziabile di essere qualcosa, di iniziare la vita o di finirla. Ma non mi avevi detto che avevi amato? Amare è vivere insieme. Oh, per te, senza dubbio, per te che cercavi una fine ben nota in amore e che sei riuscita a raggiungerla, ma non ero, non potevo essere all'altezza di nessuno in amore. La freddezza dei miei sensi mi poneva al di sotto delle donne più abbiette. L'esaltazione dei miei pensieri mi innalzava al di sopra degli uomini più appassionati. Amavo per bisogno, per necessità, ma senza gustare le gioie che davo. Non potevo legarmi con un sentimento reale, con un riconoscimento fondato all'oggetto dei miei sacrifici, questo desiderio sfrenato di felicità che perseguivo in lui e che nessun godimento umano poteva soddisfare. Era una tortura eterna e profonda. Se l'entusiasmo dello spirito non avesse distrutto in me i salutari calcoli dell'egoismo, non avrei mai potuto amare. Ma non sapendo dove spendere il mio vigore intellettuale, lo gettai strisciante e tenace ai piedi di un idolo creato dalla mia adorazione, perché era un uomo come un altro. E quando mi stancai di prostrarmi, ruppi il piedestallo e lo vidi ridotto alle sue vere dimensioni. Ma l'avevo posto io così in alto, nella mia pomposa adorazione, che mi era sembrato grande come un dio. Questo è stato il mio errore più deplorevole. E guarda che destino miserabile è il mio. Mi sono ridotta a rimpiangerlo non appena l'ho perso. È che ahimè non avevo più nulla da mettere al suo posto, tutto mi sembrava piccolo vicino a questo colosso immaginario. L'amicizia mi sembrava fredda, la religione bugiarda e la poesia era morta con l'amore. Con la mia chimera ero stata felice come i miei personaggi del mio calibro possono essere. Ho apprezzato la forte espansione delle mie facoltà, l'ebbrezza dell'errore mi gettò in estasi veramente divine. Mi immersi al massimo in questo destino amaro e terribile che doveva inghiottirmi dopo avermi spezzata. Era uno stato inesprimibile di dolore e gioia, disperazione ed energia. La mia anima tempestosa godeva di questo disastroso agitarsi che la logorava senza frutto e senza ritorno. La calma lo spaventava e il riposo lo irritava. Aveva bisogno di ostacoli, di fatiche, di gelosie divoranti da concentrare, di crudeli ingratitudini da perdonare, di grandi opere da perseguire, di grandi disgrazie da sopportare. Era una carriera, era una gloria. Come uomo avrei amato le battaglie, l'odore del sangue, l'abbraccio del pericolo, forse l'ambizione di regnare con l'intelligenza, di dominare altri uomini con parole potenti. Mi avrebbe sorriso nei giorni della mia giovinezza, ma come donna avevo un solo nobile destino sulla terra, quello di amare. Ho amato valorosamente, ho sofferto tutti i mali di una passione cieca, irrobusta di fronte alla vita sociale e al vero egoismo del cuore umano. Ho resistito per molti anni a tutto ciò che doveva spegnerla o raffreddarla. Ora sopporto senza amarezza i rimproveri degli uomini e ascolto con un sorriso l'accusa di insensibilità che mi rivolgono. So, e lo sa anche Dio, di aver portato a termine il mio compito, di aver contribuito con la mia parte di fatica e di angoscia al grande abisso di rabbia in cui le lacrime degli esseri umani cadono senza poterlo riempire. So di aver usato la mia forza attraverso la devozione, di aver abiurato il mio orgoglio, di aver cancellato la mia esistenza dietro un'altra esistenza. Sì, mio Dio, lo sai, mi hai spezzato sotto il tuo scettro e sono caduta nella polvere. Mi sono spogliata di quell'orgoglio che un tempo era così altero e ora è così amaro. L'ho spogliato molto prima dell'essere che hai offerto al mio culto fatale. Ho lavorato bene, ho divorato il mio male in silenzio. Quando mi farai riposare? Ti stai vantando, Lelia. Hai lavorato per niente, non mi sorprende. Volevi essere sublime, non eri nemmeno alta. Ecco cosa significa volersi isolare dalle gioie volgari e fare un destino di scelta e di eccezione. Ti sentivi troppo nobile per condividere la felicità in modo paritario con un'altra creatura. Volevi dargliela senza riceverla. Ebbene, non sei riuscita a realizzare questo magnifico piano. Volevi essere generosa, ma sei stata solo prodiga. Se fossi stata veramente grande, avresti messo la felicità degli altri al posto della tua. Avresti assaporato tra le braccia del tuo amante un piacere più grande del suo, quello di dargli tutto. Ho spesso desiderato questo piacere supremo, ho spesso rimpianto di non essere in grado di spegnere l'ardore del mio sangue e di moderare l'impeto dei miei desideri per poterlo contemplare, per poter contemplare un uomo felice sul mio petto. Mi sarebbe piaciuto poter mescolare i raffinati piaceri dello spirito con quelli febbrili del corpo, ma perché sembrano escludersi o soffocarsi a vicenda? È perché sappiamo come distinguerli, disse Lelia. Ho conosciuto i generosi piaceri dell'anima separata dalla materia, ma non mi sono bastati, perché l'egoismo umano è feroce, è indomabile, si rialza sempre, ci rosicchia dolcemente o si risveglia strappandoci all'improvviso. Hai ragione a deridere la gigantesca ambizione dell'amore platonico. Invano lo spirito cerca di elevarsi, la sofferenza lo riporta sempre a terra. Oh, mi ricordo, durante quelle notti di fuoco che ho trascorso vicino ai fianchi di un uomo, ho studiato bene le rivolte dell'orgoglio contro le vanità dell'abnegazione, ho sentito che si poteva allo stesso tempo amare un altro più di se stessi, fino a sottomettersi a lui e amare se stesse fino a provare odio contro colui che ci sottomette. E poi, disse Pulcherie, attenuando il suo precedente tono sarcastico e prendendo la mano di Lelia in un simpatico movimento di unione. Gli uomini sono maleducati. Vedi, sorella mia, nella nostra vita di galanteria e di cambiamento ci succedono cose simili. Succede che siamo piene della ricchezza di una persona e le condividiamo con l'altra. Il più delle volte odiamo colui che ci ama abbastanza da pagarci e paghiamo colui che ci ama abbastanza vigliaccamente da essere alle nostre dipendenze. Ma l'uomo è brutale e non sa dove inizia e dove finisce la devozione di una donna. Non sa che è da sciocchi accettare i doni di un cuore innamorato sotto l'occhio di una mente dotata. Lei offre con abbandono, dà con gioia, poi si ferma stupita. E disprezza colui che, essendo il più forte e potente, non ha arrossito nel ricevere. L'uomo è stupido e la donna è immobile. Questi due esseri, così simili e così dissimili, sono fatti in modo tale che c'è sempre odio tra loro, anche nell'amore che provano l'una per l'altro. Il primo sentimento che segue il loro abbraccio è il disgusto o la tristezza. Questa è una legge dall'alto contro la quale ti ribellerai invano. L'unione dell'uomo e della donna era destinata ad essere temporanea nei disegni della provvidenza. Tutto si oppone alla loro unione, il cambiamento è una necessità della loro natura. La cosa più crudele per me, disse Lelia, è che non conosceva l'entità dei miei sacrifici, come se arrossisse di gratitudine, ha sempre respinto l'idea sgradita delle mie dimissioni. Fece finta di credere che fossi stata ingannata da un sentimento di ipocrita modestia, fece finta di prendere per segni di ebbrezza i gemiti di dolore e di impazienza. Rise duramente delle mie lacrime. A volte il suo infame egoismo se ne cibava con orgoglio e quando mi aveva spezzato in abbracci feroci, si addormentava spensierato e ruvido al mio fianco, mentre io mi divoravo i singhiozzi per non svegliarlo. Oh, miseria e schiavitù della donna. Sei talmente parte della natura che la società avrebbe dovuto cercare almeno di ammorbidirti. Eppure io lo amavo appassionatamente, questo padrone di mia scelta, e accettavo come una necessità fatale. Lo veneravo come con un segreto compiacimento per me stessa, perché lo avevo scelto. Lo amavo alla follia. Più mi faceva sentire il suo dominio, più lo apprezzavo, più ero orgogliosa di indossare la mia catena. Ma ho anche ricominciato a maledire la mia servitù al primo momento di libertà che la sua dimenticanza o indolenza mi lasciava. Del mio amore ho fatto una religione, una virtù almeno, ma volevo che mi fosse grato per questo, lui che obbediva solo a una preferenza istintiva. Mi sbagliavo. Poteva solo disprezzare la mia eroica debolezza quando io avevo a cuore il suo vile impero su di me. Ciò che mi ha spinta ad amarlo a lungo, tanto da consumare tutta la mia anima. È stata senza dubbio la febbrile irritazione prodotta sulle mie facoltà dall'assenza di soddisfazione personale. Avevo vicino a lui una sorta di strana e delirante avidità che, traendo origine dai poteri più squisiti della mia intelligenza, non poteva essere soddisfatta da alcun abbraccio carnale. Sentivo il mio petto divorato da un fuoco inestinguibile, i suoi baci non davano alcun sollievo. Lo strinsi tra le braccia con una forza sovrumana e mi accasciai accanto a lui esausta, scoraggiata per non avere modo di esprimere il mio entusiasmo. Il desiderio in me era un ardore dell'anima che paralizzava il potere dei sensi prima di essere risvegliato. Era una furia selvaggia che si impadroniva del mio cervello e si concentrava esclusivamente lì. Il mio sangue si era congelato, impotente e povero durante l'immensa espansione della mia volontà. Allora sarei dovuta morire. Ma l'egoista non avrebbe mai accettato di soffocarmi premendomi contro il suo petto, eppure questa era tutta la mia speranza di piacere. Speravo di conoscere finalmente il languore e la gioia dell'amore addormentandomi tra le braccia della morte. Quando si addormentò lui, soddisfatto e sazio, io rimasi immobile, sgomenta al suo fianco. Ho passato molte ore a guardarlo dormire. Mi sembrava così bello. Quell'uomo c'era così tanta forza e grandezza nella sua fronte pacifica. Il mio cuore palpitò violentemente accanto a lui. I fiotti ardenti del mio sangue inquieto mi salirono al viso. Poi brividi insopportabili mi attraversarono le membra. Mi sembrava di sentire il tumulto dell'amore fisico e i crescenti disturbi di un desiderio materiale. Ero violentemente tentata di svegliarlo, di abbracciarlo e di invocare le sue carezze, di cui non avevo ancora potuto godere, ma resistetti a queste false sollecitazioni della mia sofferenza perché sapevo bene che non spettava a lui calmarla, solo Dio avrebbe potuto farlo, se si fosse degnato di smorzare il malaticcio vigore della mia anima. Così ho lottato contro questo demone della speranza che vegliava su di me. Sono fuggita da questo letto voluttuoso e miserabile, da questo santuario dell'amore che era la bara, in cui erano sepolte tutte le mie illusioni e tutte le mie forze. Ho camminato sul marmo freddo dei miei appartamenti. Ho portato la mia testa infuocata all'aria della notte, poi mi sono gettata in ginocchio e ho pregato Dio di rigenerarmi. Se mi avessero promesso di rinnovare il mio sangue esaurito nelle vene, mi sarei lasciata pugnalare come Eson e fare a pezzi come lui. A volte nel sonno, in preda a quelle ricche estasi che divorano i cervelli ascetici, mi sentivo portata con lui sulle nuvole da brezze imbalsamate. Allora nuotavo tra le onde di una voluttà indicibile e, passando le mie braccia indolenti intorno al suo collo, cadevo sul suo petto, mormorando parole vaghe. Ma si svegliò e la mia felicità finì. Al posto di questo essere etereo, di questo angelo che mi aveva cullata nel vento con le sue ali, trovai l'uomo, un uomo brutale, vorace, come una bestia selvaggia, e fuggii con orrore. Ma lui mi inseguì, finse di non essere stato invano disturbato nel sonno e assaporò il suo feroce piacere sul petto di una donna svenuta e mezza morta.